me perdo nella immensità. Mi gioco questa stranità con i miei dubbi, i miei perché, con questo cielo su di me pieno di nuvole, un mondo d'angeli ed eroi, ciò che siamo adesso noi, un mondo per un sogno in più, fino a confondersi nel blu. Al blu, cerco se adesso ci sei tu.